La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 16 di dicembre, sono 16.30, primi 11 secondi, grazie per l'ascolto diretto in podcast di versione di Oscar, da parte di Oscar Giannino qua in questa nebbiosetta e un po' cupa Milano, in diretta vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi ricorda l'indirizzo, versione di Oscar, @radio24.it, devo dire oggi sono venute tre proposte da parte di tanti che hanno scritto, però tre proposte di trasmissione, una più bella dell'altra, quindi io ringrazio perché le vedrete la prossima settimana e quindi utilizzatelo l'indirizzo per chiedere o per fare domande. No, in questa trasmissione non ci occupiamo dei pezzi che cascano per via delle iniziative delle procure nella politica italiana. Oggi a Milano sapete le dimissioni, no la dimissione, l'autosospensione, formula che non esiste nella legge ma comunque praticata dal governo, cittadino milanese, dal sindaco Sala perché è indagato per la piastra di Expo, e poi in mattinata verso 9 stamattina la notizia è l'arresto del capo del personale del comune di Roma, Raffaele Marra, che era stato difeso in tutti questi mesi dal sindaco Raggi. Una crisi di credibilità, perdonatemi, verticale, perché erano stati in tanti ad avvisare la sindaca, erano stati in tanti i colleghi giornalisti, un nome per tutti, Emiliano Fittipaldi, a scrivere sull'Espresso di che cosa si sospettava Marra dai tempi di Alemanno. Emanuele Fittipaldi aveva scritto per filo e per segno la storia delle case date dall'imprenditore immobiliarista Scarpellini a Raffaele Marra a prezzi non di mercato in cambio di piaceri per Nasarco e sul patrimonio immobiliare. Quindi io credo che errori di queste proporzioni debbano veramente far pensare, amici 5 Stelle, non funziona così, proprio non funziona. Adesso non mi metterò a dire, prendete l'Appendino come esempio, però Roma oggi subisce un altro colpo verticale di credibilità della vostra capacità di governo, quindi reagite, vedete un po' voi. Ma la vicenda di Marra era scritta, ecco. Però detto tutto questo, io ho poco da aggiungere perché non mi metto a fare polemiche e speech, però che amarezza vedere tra Roma, Milano, insomma l'Italia che non cambia mai. Proprio perché l'Italia non cambia mai, c'è una questione di fondo, per così dire, che tendiamo a dimenticarcela perché la politica poi le dipinge di una vernice a seconda di come gli fa comodo. Torniamo su uno dei classici temi del Giannino, cioè quello delle tasse, perché non vorrei che voi vi foste dimenticati su come stanno le cose davvero nel nostro paese. Siamo reduci da mesi di propaganda contrapposta, io le ho tagliate, la pressione fiscale scende di qua di là. Allora io prendo come occasione il report annuale che anche quest'anno, ieri, hanno presentato gli amici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e gli esperti contabili di Rimini. Mi hanno mandato il loro bellissimo studio di quest'anno, molto utile, e io appena l'ho letto mi sono detto facciamoci sopra una bella trasmissioncina, perché è utile, cari ascoltatori, tornare a ripeterci che cosa i lavoratori dipendenti italiani da una parte, i lavoratori autonomi, gli imprenditori dall'altra, pagano davvero nel nostro paese rispetto alla politica che dice che paghiamo in generale tutti quelli che pagano molto meno, e poi sono tantissimi ovviamente quelli che non pagano. Però la politica dice questo, stanno davvero le cose così? Ecco, allora questo studio riparte dal stimare la pressione fiscale vera italiana rispetto a quella dell'Unione Europea, e poi fa tre casi concreti, parla dell'esempio di Mario, parla dell'esempio di Giovanni, parla dell'esempio di Marco. Mario è un lavoratore dipendente con un reddito medio mensile netto in busta paga di 1.300 euro, quindi come sono milioni di italiani, 18.200 euro di imponibile annuo. Giovanni è un dipendente anche egli, ma con mansioni più elevate, quindi il suo reddito medio netto in busta paga di 2.500 euro, e quindi arriva a un reddito annuale di 35.000 euro. Mentre poi c'è Marco, piccolo imprenditore, come altri milioni di italiani, lo sapete che siamo il paese con la propensione all'autoimpresa e la percentuale di piccole imprese più elevate in tutti i paesi OCSE, che da una parte vogliono dire che c'è una fortissima voglia che continua malgrado la crisi di scommettere su se stessi, dall'altro è anche la mancanza di alternative. E però il caso di Marco è, sarà il caso di un piccolo imprenditore che ha un reddito netto in realtà mica superiore di troppo al caso dei lavoratori dipendenti, perché in questo terzo esempio il suo reddito netto annuale sarà di 24.500 euro, quindi diciamo sulla fascia intermedia tra un lavoratore dipendente di buona qualifica e un lavoratore dipendente invece di qualifica più bassa. Ecco, vi presento il nostro ospite, che è il presidente appunto degli ordini, dell'ordine commercialisti e dottori contabili di Rimini, che io ringrazio perché ogni anno il loro report, il loro studio in occasione della loro assemblea annuale ci offre sempre ricchi spunti. Si chiama Giuseppe Savioli, grazie di essere con noi, presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti e ai suoi ascoltatori. Allora, vogliamo cominciare dal dire com'è la pressione fiscale vera, e io lascio a lei spiegare cosa vuol dire vera italiana rispetto alla UE, e lo dico perché anche oggi, per esempio, il mio amico carissimo Gianpaolo Galli, ex negli anni alle nostre spalle direttore generale di Confindustria, economista, Sud in America eccetera eccetera, eletto in Parlamento nel 2013 con il PD, oggi c'è un articolo su Sole 24 ore, dice: ma noi la pressione fiscale comunque anche al netto di 80 euro è scesa con l'attuale governo dal 43% al 42%, quindi insomma non piantatela lì di dire che si tratta di una pressione fiscale molto molto più elevata, come ripetete. È così, Savioli, oppure no? No. Ecco, spieghiamo. No, non è così. Allora, partendo dai dati statistici nazionali, la pressione fiscale dell'anno 2015-2016 è rimasta sostanzialmente costante e anzi incrementata di uno 0,1%. Non è aumentata di molto, ma non è diminuita. Quindi siamo ad un livello di pressione fiscale attorno al 43,5%, sì, in linea con l'anno scorso, non diminuita, leggerissimamente aumentata, ma sicuramente non diminuita, dati ISTAT. Se vuole paragonare questo dato al contesto europeo, per capire dove siamo, perché un benchmark è sempre utile, noi siamo al terzo o quarto posto in Europa come pressione fiscale. Al terzo, quarto posto, però dopo i paesi scandinavi, dove il sistema di welfare è tutt'altra cosa. E l'altro dato che vuole emerso dal nostro studio e che mi piace condividere è che noi abbiamo chiamato la bugia della pressione ufficiale, della pressione fiscale ufficiale, è questo. Questa pressione fiscale è quella fatta sui dati ovviamente di contabilità nazionale. I dati di contabilità nazionale calcolano un PIL, un prodotto interno lordo, per renderlo omogeneo e comparabile con i paesi europei, che tiene conto anche del cosiddetto VAS, valore aggiunto sommerso, ossia nel nostro PIL c'è, considerato in maniera statistica, anche quel prodotto interno lordo sommerso che non emerge, sul quale quindi non si pagano tasse. Se io paragono la pressione in prelievo fiscale sul PIL complessivo, inclusivo del VAS, la pressione fiscale diventa ovviamente più bassa. Ma se io paragono il prelievo fiscale sul PIL dichiarato, cioè sul prodotto interno lordo su cui si pagano le tasse, i signori che pagano le tasse su tutto il loro reddito vedono aumentare il prelievo fiscale dal 43%. 3% circa al 52%. Oh, ecco. Cioè la pressione fiscale sui redditi dichiarati, non sul prodotto interno lordo nazionale, dove c'è una parte di prodotto che non paga tasse, la pressione fiscale sui redditi dichiarati, la pressione fiscale su chi paga imposte per davvero, non è quella statistica al 43, ma è al 52%. E quindi è una entità di pressione fiscale che si colloca al primo posto in assoluto in Europa, ma con i servizi di welfare e quant'altro che abbiamo in Italia. Allora, detto questo, che è sempre utile ricordare, cari amici ascoltatori, chiunque sia il politico di turno e qualunque sia il colore del suo governo in carica, destra o sinistra, perché avete, credo, immagino avete capito che in questi anni alle nostre spalle una gran differenza, ohimè, sulla politica fiscale non c'è stata, quindi c'è una politica fiscale convergente a inseguire gli andamenti della spesa corrente con gli aumenti del prelievo negli anni alle nostre spalle. Dopodiché c'è sempre una buona scusa per dire che gli interventi poi strutturali si fanno negli anni a venire. Gli interventi strutturali al di là dei bonus, ma gli interventi strutturali sulle aliquote universali per tutti si fanno nel futuro. Naturalmente questo non significa assolutamente negare che la componente lavoro dell'IRAP con il governo Renzi è stata tagliata per le imprese, non significa assolutamente negare che la componente IMU-TASI prima casa è stata tagliata un anno fa dal governo Renzi, non significa assolutamente negare che in legge di bilancio 2017, quella appena votata dal Parlamento, scende dal 27,5% al 24% l'aliquota IRES per le imprese, ma significa dall'altra parte non dimenticare che in questi anni, a fronte di queste diminuzioni, queste che ho ricordato universali, ci sono state anche decisioni di segno opposto. L'ho ricordato più volte, l'aumento dell'imposizione sui dividendi da capitale, le cosiddette rendite finanziarie, l'aumento di aliquote sulle casse professionali, l'aumento di aliquote sui fondi previdenziali integrativi, eccetera eccetera, tutte cose prese per riequilibrare in parte gli effetti del minor gettito dei tagli che ho ricordato prima. Ma andiamo ai tre casi concreti, che siccome sono concreti fanno capire meglio su come stiamo messi nel nostro paese, cioè i casi dei tre esempi che vengono assunti dai commercialisti di Rimini per farci capire meglio quanto paghiamo davvero a seconda del tipo di attività che facciamo, lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Quindi io chiedo al nostro ospite, a Giuseppe Savioli, di cominciare a descriverci quante tasse paga davvero l'impiegato Mario, che ha un reddito medio mensile netto di 1.300 euro in tasca e quindi un reddito annuale di 18.200 euro? Mario ha ovviamente due, come tutti noi, due tipi di imposizione, quella diretta e quella indiretta. Quella diretta così dal prelievo che subisce direttamente in busta paga dall'autore di lavoro, quindi dal suo lordo arrivano, che è 24.500 euro, arriva un netto di 18.000 euro. Sì. E lui subisce un prelievo del 16,2% per IRPEF, che per agganciarmi al suo discorso introduttivo, il governo fatto ottimamente sulle imprese abbassando molto il carico fiscale, ma non ha toccato minimamente le aliquote IRPEF, cioè le aliquote che incidono sui dipendenti, sulle persone fisiche. E infatti il nostro studio è uno studio sulla pressione fiscale sui lavoro, sì, un lavoratore autonomo e un dipendente. Quindi lascia il 16,2% del proprio reddito per imposte dirette IRPEF e il 9,2% per contributi previdenziali essenziali a carico del dipendente. Quindi complessivamente è inciso per il 25,4% per imposte dirette. Un quarto del suo reddito lordo gli viene trattenuto immediatamente dal datore di lavoro in busta paga. Ma non è questo, ed è questo forse l'aspetto che a molti sfugge, la pressione o il prelievo fiscale di maggior rilievo, perché noi subiamo un'altra forma di prelievo fiscale che è quasi inconsapevole ormai, al quale ormai siamo assuefatti, che è quello dell'imposizione indiretta. Tutte le mattine, tutti i giorni, da quando ci alziamo e prendiamo un caffè e con ciò lasciamo 20 centesimi all'erario e solo 80 al barista, a quanto andiamo a dormire, guardiamo la televisione e lasciamo il canale Rai allo Stato. E lasciamo perdere poi se mettiamo un litro di benzina dove ne lasciamo 52 centesimi su un euro, esatto, allo Stato. Dalla mattina alla sera noi in ogni passo della nostra giornata lasciamo soldi all'erario. Lasciamo soldi sulla benzina, sulle assicurazioni, quando compriamo un abbigliamento, cibo, vestiario, quando paghiamo le tasse dell'iscrizione scolastica ai nostri figli, quando spendiamo soldi per ticket sanitari, anche per tante spese che dovrebbero essere in realtà coperte dalla fiscalità generale. Cioè, ogni giorno, ogni passo che facciamo, ci cadono dalle tasche soldi senza che noi ce ne rendiamo conto di fatto, e questi soldi li raccoglie lo Stato. E sono un'entità enorme, perché il signor Mario, che prende 1.300 euro netti mensili, e quindi ha un livello di capacità di spesa modestissimo, ha difficoltà quasi a garantire il diritto allo studio dei figli, lascia allo Stato ben 6.382 euro di imposte indirette. Questo vuol dire che l'anno, ovviamente, che sono il 26% del suo reddito. Questo vuol dire che una dipendente con un reddito così modesto lascia allo Stato il 51,5% del proprio reddito e rimane per sé, per le proprie esigenze, della propria famiglia, soltanto il 48,5% di reddito disponibile. Allora, per ricapitolare, stiamo parlando di un lavoratore dipendente di qualifica non troppo elevata. Se sommate le tre diverse componenti, il reddito persona fisica, l'imposizione persona fisica sul suo reddito da lavoro, 1, 2, la parte di contributi che è al proprio carico, non dell'impresa, 3, l'imposizione indiretta, il risultato è che Mario, questo lavoratore dipendente, dà il 51,5% allo Stato. Esattamente, noi abbiamo fatto anche una presentazione grafica che per ovviamente per radio non si vede, ma abbiamo graficamente esposto per quanto tempo questo signore deve lavorare per lo Stato e quanto tempo lavora per sé e per la propria famiglia. E ovviamente lavora 187 giorni solo per pagare le tasse, quindi metà fino a luglio inoltrato, per pagare le tasse, e da luglio inoltrato comincia a lavorare per mantenere per sé il residuo, per sé e per l'esigenza. Va bene, allora questo era il primo esempio. Adesso andiamo all'esempio di Giovanni, dipendente con mansioni più elevate, che ha un reddito quindi più significativo. Vediamo a quanto arriva la percentuale sommando imposte che paga sul reddito come persona fisica, contributi a proprio carico e imposte indirette. Però tra un minuto, perché intanto prima traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua, siamo con Giuseppe Savioli, presidente di Ordine dei Commercialisti di Rimini. Vi abbiamo spiegato come Marco, abbiamo cominciato con Mario, un lavoratore dipendente con 1.300 euro netti al mese, paga in realtà il 51,5% del suo reddito lordo, sommando le imposte sul reddito della persona fisica, i contributi a proprio carico e le imposizioni indirette. Andiamo al caso di Giovanni. Giovanni è un dipendente con una mansione più elevata, quindi netto in busta, diciamo, di 2.500 euro. Facciamo un po' il conto accelerato per vedere come sta messo rispetto al lavoratore di cui abbiamo parlato. Accelerando, sintetizzando l'esposizione, Giovanni lascia il 29% per IRPEF, il 9,2% per contributi a carico dipendente, con ciò lascia il 38,4% del proprio reddito già in busta paga. Poi anche Giovanni ovviamente subisce, e ovviamente in misura maggiore perché ha maggior capacità di spesa e quindi lascia maggiori imposte indirette sulla sua strada, un prelievo per imposte indirette per 9.000 euro, 9.100 euro per la precisione, cosicché la sua pressione fiscale complessiva monta ben a 25.000 euro e rotti, che sono tantissima roba, e con un'incidenza fiscale del 54,5% e quindi un reddito disponibile per sé e per la propria famiglia soltanto del 45,5%. 54%, quindi questo, esatto, signore, mentre il primo lavoratore doveva lavorare per lo Stato fino al 6 luglio, questo lavora per lo Stato fino al 18 luglio di ogni anno. Esatto, 199 giorni. Per cui arriva alla vigilia delle ferie, dovendo lavorando fino a quel momento per lo Stato. Dopodiché comincia a lavorare per, come dire, avere reddito spendibile per sé e per la propria famiglia. Andiamo invece all'esempio del piccolo imprenditore. Allora, il piccolo imprenditore, come abbiamo chiamato convenzionalmente Marco, è un piccolo imprenditore che ha un reddito lordo di 24.500 euro, del quale abbiamo calcolato la pressione fiscale per imposte dirette e indirette. Ma 24.500 reddito e 24.500 euro è reddito netto, per cui non abbiamo neppure conteggiato le varie piccole imposte che paga durante la sua vita, tasse con CCA, altre imposte marginali, tasse concessioni governative che paga durante la vita della sua impresa. Ovviamente la pressione fiscale per imposte dirette del signor Marco è in linea, grosso modo, con quella del primo dipendente, perché il reddito è all'incirca lo stesso. Le imposte indirette sono all'incirca lo stesso, ma il tema, la differenza è che mentre per il dipendente una parte dei contributi previdenziali li versa il datore di lavoro a carico del datore di lavoro, il povero signor Marco ha tutta la previdenza, che è tutta obbligatoria, per cui lo Stato gli impone di versare una certa ammontare rilevante di contributi per preservare la propria previdenza di pensione, senza che possa tanto scegliere se mettergli una pensione privata all'assicurazione, di versarlo. È tutto a suo carico. Necessariamente, allo Stato, tutto a suo carico. E quindi sommando le tre poste, arriviamo ad una pressione fiscale che è del 63%. Capito, cari ascoltatori? Non so se vi è chiaro. 63%, cioè... Dal lordo resta al netto a Marco, piccolo imprenditore, il 37% del reddito lordo. Oh, io non so se... Io lo so che siete tutti convinti dell'autore dipendente, ma di che ci stai parlando? Marco le tasse non le paga, le evade, eccetera, eccetera. Questa è la condizione, in realtà, dei lavoratori autonomi. Hai capito? Il 37% gli lascia, gli resta in tasca, gli lascia lo Stato. Cioè, questo Marco lavora fino al 17 di agosto per lo Stato. Ecco, anche se ci dividono, io direi che queste cifre è meglio che ce le teniamo in testa. Ripeto, a chi ha 1.300 euro netti al mese e fa il lavoratore dipendente, lo Stato tra contributi a carico diretto del lavoratore, IRPEF e imposte indirette, gli piglia il 51%. Al secondo lavoratore dipendente, che ha un netto 2.500 euro, e lo Stato gli prende il 54%. All'autonomo, che ha un reddito netto di 24.500 euro l'anno, lo Stato gli piglia il 63%. Allora, e ci dobbiamo sentir dire che dobbiamo essere grati per i grandi tagli che abbiamo avuto alle imposte. Ecco, io ringrazio i dottori contabili di Rimini, perché questi sono i numeri. Capite? Il terzo lavoratore, l'autonomo, lavora 46 settimane l'anno per lo Stato. Io questa cosa alzo un po' il tono, perché forse molti non è chiara e molti sono convinti invece che il lavoratore autonomo sia quello che vi ruba le cose in tasca, che è il lavoratore dipendente. Sentiamo un po' come la pensano alcuni di voi. Antonio da Bari, prego. Antonio. Sì, salve, buongiorno Giannino. Sì. Io sono un rappresentante, una partita IVA, e proprio oggi sono stato al commercialista. Ah già. E ho detto tutto ciò che volevo dire io. C'è una disperazione, basta chiedere veramente a tutti i commercialisti. Io sono, ho tutti amici, colleghi, tutti i rappresentanti in famiglia, no, e la difficoltà nel pagare è enorme, cioè noi facciamo dei prestiti con le banche per pagare le tasse, ma non perché ce ne andiamo in vacanza o ce ne andiamo a destra, ma veramente perché non alle volte ci si domanda, ma questa classe politica, ma si rendono conto di cosa stanno combinando, cioè si rendono conto di cosa paghiamo e quello che non lo so se se ne rendono conto, però i numeri sono a disposizione di tutti. Il problema è che ovviamente direi le cose come stanno è troppo crudo. Andrea da Padova, come la pensa? Andrea, buonasera a voi. No, io credo che la cosa deve essere vista nella maniera opposta, cioè è che con una forza produttiva del 37%, giusto, anche questo, tenere in piedi, giusto, un anche questo, che manda il, giusto, 100%. Anche questo, perché da questo dipende la pressione così elevata. Io sto accelerando perché sennò ci tagliano, non voglio che tagli, ma lei coglie